Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo,